Un saluto breve, un saluto veloce. Io mi organizzo qui per condividere con voi questo messaggio che sarà bello sostanzioso stamattina. Quando l'ho confrontato con mia figlia Aurora, lei ha detto: papà, è tanto. E non mi ha incoraggiato, ho dovuto rivedere un po' di cose. No, scherzo, perché questo tema, il come te, è importantissimo, è fondamentale. Non c'è cosa più fondamentale per un credente, per un cristiano, cioè un piccolo Cristo, letteralmente significa questo, proprio seguire Lui nelle sue orme, essere come Lui. E quindi è un aspetto fondamentale che, come il pastore ha predicato nel suo primo messaggio, ha detto, ci chiama, ci ispira, ci motiva a maturità, a crescere. E io sono molto riconoscente per quest'anno, per questo tema, per i messaggi che abbiamo già ricevuto, e guardo avanti a quest'anno e a come ci farà crescere a sua immagine e a sua somiglianza. E vorrei partire però con questo appunto importantissimo. Cercherò di non aprire troppe parentesi, però vorrei aprire questa, perché ogni qualvolta noi pensiamo o comunque riflettiamo su questo tema come te, la prima cosa innata che ci viene di pensare è un mio sforzo, è un mio adoperarmi, io devo diventare sempre più simile a Lui, giusto? Amen, sì è così e no, e sì e no, è un paradosso, il paradosso cristiano. Certo, noi con tutte le nostre forze, con tutti i nostri sforzi, con tutto il nostro impegno, ogni giorno, giorno dopo giorno, dobbiamo desiderare e compiere la nostra salvezza. In altre parole, diventare sempre più simili a Lui. Ma, e questo mai è grandissimo, con la consapevolezza, con il sapere, con l'abbracciare il fatto che è Lui che compie in noi questa opera. È Lui che ci trasforma ad essere conformi all'immagine del Figlio. Era chiara questa? È Lui che ci trasforma, è Lui che compie in noi questa opera per essere conformi all'immagine del Figlio, come te, Gesù. E il nostro desiderio deve essere il nostro cuore. Il primo verso che questo tema ha portato la mia mente al mio cuore, anche perché è un verso sul quale rifletto da un po' di tempo, è stato proprio il verso che forse non è scontato, proprio ovvio, però era il verso dell'ultima cena. E in particolar modo proprio un verso dell'ultima cena. E lo voglio leggere insieme. Si trova in Luca, al capitolo 22, in realtà si trova anche in Matteo 26, Marco 14, quasi lo stesso verso. Il verso è questo. Breve, breve, semplice, ma non fatevi ingannare dalla brevità del versetto. Luca 22, 19 dice questo. Gesù è con i suoi discepoli, è l'ultima cena, è una cosa che aveva ardentemente desiderato, c'è scritto, cioè proprio ci teneva a quest'ultima cena con i suoi, e questo è quello che avviene, uno scorcio di quello che avviene. Poi prese il pane, Gesù, poi prese il pane e, dopo aver reso grazia, dopo averlo benedetto, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Ovviamente Gesù istituisce qui il nostro sacramento della Santa Cena. Il sacramento non è altro che un fare qualcosa di fisico, di esteriore, di tangibile, che sancisce, evidenzia qualcosa che crediamo con tutto il cuore, no? E questo è la Santa Cena, è farlo in memoria di Lui. Ora, per diventare sempre più simili a Lui, per diventare come te e compiere quello sforzo, compiere quell'impegno quotidiano, dobbiamo conoscere Cristo Gesù. Ovvio, no? Cioè, per diventare come Lui, se non conosciamo chi Lui è o come è difficile. Per questo ogni giorno noi compiamo questo sforzo nel conoscerlo sempre di più. E possiamo conoscerlo, amici e amiche, fratelli e sorelle, da qui a casa, lo possiamo conoscere nella maniera migliore, nella maniera più precisa attraverso la sua parola. E avete notato che attraverso questa sua parola, questo suo verso, è vero che Gesù sta inaugurando questo, o per la prima volta sta dando istruzioni ai suoi discepoli della Santa Cena. Ma avete notato una cosa? Sta descrivendo se stesso, o ha appena descritto se stesso. Lui, il pane della vita. Lui, il pane della vita, preso, benedetto dal Padre, spezzato e donato. Lui preso, benedetto, spezzato e donato. Lui preso dal pane, spezzato dal peccato, spezzato dalla croce, dalla sofferenza, e donato a chiunque crede. Il Signore Gesù, attraverso queste parole, descrive se stesso, e per questo poi ci dice: fate questo in memoria di me, di chi io sono e di quello che io ho compiuto per voi. E ognuna di queste parole è fondamentale, ognuna di queste parole, cioè il preso, il benedetto, lo spezzato e il donato, è importantissimo. È così importante che ho deciso di fare una serie di messaggi per ognuna di queste parole, perché non mi bastava solo stamattina, d'accordo? Ci siete? Quindi stamattina iniziamo solo con la prima parola, per questo ho detto non fatevi imbrogliare dalla brevità del verso, la prima parola, che è il prese. Gesù è stato preso. Come lui, noi. E poi vedremo questo. Però Gesù è stato preso, e Gesù è stato preso, in particolar modo vedremo come Gesù è stato preso dal Padre, da eternità passata, per uno scopo ben specifico. D'accordo? Gesù è stato preso, e ripetete con me, dal Padre, da eternità passata, per uno scopo ben specifico. Guardate insieme a me, dal Padre, Gesù è stato preso. Ora, alcuni termini sinonimi che spiegano un po' meglio e si trovano anche in versi paralleli proprio di questo, del prese, è chiamato scelto. Quindi al posto della parola prese possiamo anche usare la parola proprio chiamato, scelto. Quindi Gesù chiamato, scelto dal Padre, dal Padre. Vedete cosa dice Efesini 5:5? Così anche Cristo non prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote. Non se la prese da sé, ma la ebbe da colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Ora, questo verso dice tanta roba, però senza distrarci, focalizziamoci sul fatto che Gesù è stato preso, non da se stesso, non si è preso lui questa gloria, questo ruolo di sommo sacerdote, di essere intermediario fra Dio e gli uomini, ma è stato preso da qualcun altro, dal Padre. Ora qui c'è il mistero della Trinità e non apriamo neanche questa parentesi, però il Padre ha preso il figlio, in altre parole ha scelto il figlio, lo ha chiamato in questo senso, e quindi il Padre ha chiamato il figlio da eternità passata. Quindi dal Padre, da eternità passata. Vedete questo verso, altro verso, 1 Pietro 1:20. Gesù è stato preso, chiamato, scelto da eternità passata, già designato. Quando? Prima della fondazione del mondo. Quando? Prima della fondazione del mondo. Egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi, quindi prima della fondazione del mondo, è stato scelto, chiamato, designato, e poi nel 2000 anni fa, quindi l'anno zero, fatemi dire così, è stato manifestato per aprire gli ultimi tempi che oggi stiamo ancora vivendo. Per mezzo di lui, credete in Dio che l'ha resuscitato dai morti, e egli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Gesù, disegnato per la salvezza del mondo da eternità passata. Qua un po' cortocircuito deve fare. Come? quando è morto Gesù, Gesù nella volontà del Padre, quando lui lo ha scelto, lo ha chiamato, è morto, si è sacrificato per tutti quanti noi da eternità passata, prima della fondazione del mondo. Quando Adamo ed Eva hanno peccato, quando è entrato il peccato nel mondo, il Signore non è che ha fatto, e adesso che faccio? Aia, non me l'aspettavo questa scelta di Adamo ed Eva. E no, lui era in perfetto controllo, lui già sapeva, e Cristo Gesù nel suo cuore, nel suo disegno, nella sua idea era stato già sacrificato, era già morto per i peccati. Quindi il Signore Gesù è stato preso, scelto da eternità passata per uno scopo ben specifico. E qual era questo scopo ben specifico? Giovanni 6 dice: perché sono disceso dal cielo, Gesù dice questo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E qual era questa volontà? Giovanni 3:16 lo conosciamo bene, no? Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, eccetera, eccetera, eccetera. Giovanni 17 invece, 3:17 dice: Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. O ancora, Matteo 20:28, il figlio dell'uomo, Gesù, non è venuto per essere servito, ma servire. E fare cosa? Dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Questo era lo scopo ben preciso di Gesù, per questo lui è venuto sulla terra. Quindi Gesù è stato preso, scelto dal Padre, da eternità passata, per uno scopo ben specifico, cioè la salvezza di chiunque crede in Lui. Questo è quello che Cristo Gesù è. E che cosa ci dice questo di Gesù? Per riassumere, per tirare le somme. Che cosa significa questo di Gesù per noi? Gesù sapeva perfettamente chi fosse. Gesù era profondamente consapevole di chi era. Lui sapeva chi era in ogni momento, sapeva da dove veniva, dal Padre, sapeva cosa era venuto a fare sulla terra e sapeva dove andava. Questa di Gesù, la consapevolezza, la profonda consapevolezza della sua identità, che lui era l'amato figlio, era l'ancora, era la sua ancora in ogni mare. A prescindere se il mare era agitato o era calmo, questa era la sua forte identità. Gesù in ogni momento sapeva che era dal Padre, da eternità passata, non era un incidente di percorso, e per uno scopo ben specifico. Queste erano le fondamenta di Cristo Gesù. E in questo, fratelli e sorelle, amici e amiche, noi dobbiamo seguirlo. In questo noi dobbiamo sempre più assomigliare a Lui. Tutto inizia da chi noi siamo, dalla nostra identità, da chi noi siamo in Dio. Questa era l'ancora forte di Cristo Gesù e deve diventare di gloria in gloria la nostra ancora sempre di più, sapendo che è Dio che ci dà quest'ancora e che è Lui che ci sostiene in ogni mare. Ma per questo insieme guardiamo come non solo Cristo Gesù è stato preso, scelto, chiamato dal Padre da eternità passata per uno scopo ben specifico, ma guardiamo insieme come io e tu, ognuno di noi è stato preso, è stato preso dal, da, con, ben preciso, bravissimi, anche noi, dal Padre, da eternità passata per uno scopo ben specifico. E ovviamente noi siamo stati presi allo stesso modo, scelti allo stesso modo, in realtà simili ma non uguali. Cioè qui una parentesina la devo aprire, cioè solo Gesù poteva fare quello che Gesù ha fatto. Perché figlio di Dio è Dio, Dio fattosi carne, d'accordo? Quindi noi diventiamo simili a Lui, ma non uguali a Lui. No, perché lui è glorioso. No, qualcuno si sveglia, dice, Gianluca ha detto che posso diventare come Gesù. No, momento, noi diventiamo simili a lui, trasformiamo a sua immagine e somiglianza. Sì, però questo è quello che noi siamo. E guardate con me, Davide, il salmista, ispirato dallo Spirito Santo, in maniera poetica, con una poesia, mette queste verità, scelto dal Padre da eternità passata per uno scopo ben specifico. Salmo 139, dal verso 13, dice questo, potete seguire sullo schermo, poiché sei tu, chi? Chi? Il Padre. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Prima di mia madre, sei tu. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso e stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene, questo è il punto di crescita. Le mie ossa non ti erano nascoste quando io fui formato nel segreto e intessuto nelle parti più basse della terra. Non è più il grembo, è ancora prima, no? I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo. E nel tuo libro, sentite adesso, nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati. Nel tuo libro erano tutti scritti i miei giorni. E quando sono stati scritti questi giorni? Quando nessuno di essi era ancora sorto. Avete letto insieme a me? Dal Padre. Il salmista dice, confessa, sei tu che hai formato le mie reni. I tuoi occhi videro la mia massa informe, la videro nel ventre della terra. Questa terminologia, questa bellissima poesia, secondo me, è fantastica. Mi ricorda il linguaggio della creazione, non è vero? La terra era informe, tutto era confuso, vuoto, buio. Dio nel principio. È con Lui che inizia ogni cosa, è con Lui, è dal Padre che inizia la nostra esistenza. Noi veniamo dal Padre, non sei un incidente, non sei prima e più di tutto la volontà dei tuoi genitori o l'errore dei tuoi genitori. Magari i tuoi genitori ti hanno sempre detto, noi non è che proprio ce l'aspettavamo. Non importa. Perché ancora prima dei tuoi genitori, ancora prima dei tuoi nonni e dei tuoi bisnonni, da eternità passata, Dio ha visto e ha detto sì, io voglio. E ti ha voluto in esistenza. Segnatevela questo. No. Ti ha voluto Lui in esistenza. E dal Padre non sei un incidente, non sei un caso. Quando te lo chiedi, quando sei un po' confuso, devi tornare a questa verità. È Lui che ti ha intessuto nelle viscere della terra e poi nelle viscere di tua madre. Ma è Lui che ti ha voluto. Noi precediamo dal Padre e non siamo frutto del caso. Sapete, l'evoluzione, la teoria dell'evoluzione, che non è legge, stanno cercando ancora di provarla. La cosa più dannosa che fa è proprio questa. Cioè ci dice siamo frutti del caso. Siamo frutti del caso. Non è quello che la parola di Dio dice. Se vogliamo essere come Lui, se vogliamo essere come Cristo Gesù, dobbiamo crescere ogni giorno in questa consapevolezza. Io non sono qui a caso. Io non sono frutto del caso o frutto di un incidente. E neanche frutto dell'amore dei miei genitori. Ancor prima il Padre mi ha visto e ha detto sì a Gianluca. E Gianluca nel 1977 fu. Io sono dal Padre, tu sei dal Padre e siamo da eternità passata. L'avete letto insieme a me nel Salmo? Guardate, nel Salmo 139, sempre lo stesso Salmo, nel verso 16 c'è proprio scritto questo. Nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano ancora destinati, quando nessuno di essi era ancora sorto. Quando sono stati scritti nel suo libro tutti questi giorni? Quando nessuno dei giorni era ancora sorto. Quando il sole non era stato ancora creato. Quando la terra non era ancora stata creata. Gesù mi ha visto e ha detto, ma quanto è bello Gianluca. ma quanto è meraviglioso. Io ho questa meravigliosa idea di lui, perché c'è scritto: io sono stato fatto in maniera meravigliosa e stupenda. Tu sei stato creato in maniera meravigliosa e stupenda in eternità passata, quando Dio ha avuto quel primo pensiero di te. Quando Dio ha avuto quel primo pensiero di te in eternità passata, questo è quanto grande è Dio. Questo significa che lui è eterno. Lui è fuori dal tempo, non è vincolato dal tempo. In eternità passata ti ha visto. E poi ha scelto, nella sua saggezza, di farti nascere, di farmi nascere. Lui mi ha visto in eternità passata, mi ha visto in maniera stupenda e meravigliosa, e poi ha detto: Pinuccio e Sofia, adesso sì. Il 25 ottobre del 1977 io sono nato. Ma è solo la nascita fisica quella. Io ho una nascita, un principio dal Padre che è eterno. Non solo la mia nascita, il mio essere è del Padre da eternità passata, ma anche la mia salvezza. Se tu credi che Cristo Gesù è il Figlio di Dio e che è morto per i tuoi peccati, e che la sua resurrezione significa la tua resurrezione, la tua libertà e la tua eternità con lui, a te che credi questo, ti ha predestinato a questo. Efesini 1 dice: lui ti ha predestinato perché ti ha preconosciuto in eternità passata, fin dalla fondazione del mondo, a essere, c'è scritto, a eletti, perché fossimo santi e irreprensibili davanti a lui nell'amore. Ora sentite quest'altro verso in 2 Timoteo 1, versetto 9: il quale Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non secondo le nostre opere, non per quello che noi potevamo sforzarci di fare, ma secondo il proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù. Da quando? Fin dall'eternità. Lui ha scelto di darti grazia e salvarti. Quindi noi, come Gesù, siamo stati chiamati, scelti, presi, come quel pane, presi, scelti, chiamati dal Padre, da eternità passata, per uno scopo ben preciso. Anche io e tu abbiamo uno scopo ben preciso. Siamo stati creati in maniera unica, stupenda e meravigliosa. E abbiamo uno scopo ben specifico che solo io posso compiere, il mio. Solo tu puoi compiere il tuo, come Cristo solo il suo poteva compiere lui. Efesini 2:10 dice proprio questo: siamo opera sua. No, di nuovo, il Padre che ci ha voluto in esistenza e ci ha salvato. Siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Io sono stato creato per volontà del Padre in maniera unica e meravigliosa da eternità passata per uno scopo ben preciso. Solo io posso amare come ama Gianluca Ronchi. E solo tu puoi amare come ami tu. Solo tu puoi servire come tu servi. Dove tu servi, chi tu servi. Ognuno di noi è in un contesto ben preciso, e lì il Signore ci ha voluto per uno scopo ben preciso. Amen. Dal Padre? Dal Padre? Da eternità passata per uno scopo ben preciso. Questo. Questa è la mia identità, questa è la tua identità. Non sei un caso, non sei un errore. Sii consapevole di chi sei, proprio come Gesù. E siamo stati creati in maniera stupenda. E questa cosa io me la devo ripetere ogni giorno, perché è facilissimo dimenticarla. Quasi ogni giorno la dimentico. e la devo ricordare. Non sei frutto del caso. E io chiedo, alle sorelle nel nostro mezzo, alle mie sorelle, ma alle mie figlie, quelle di carne, quelle di DNA e quelle spirituali. La mattina, quando ti guardi nello specchio, che cosa vedi? Vedi i tuoi capelli troppo sottili, troppo ricci, troppo biondi, troppo bruni? Cosa vedi? La pelle troppo macchiata, troppo liscia, troppo rugosa? I tuoi fianchi, come li vedi? Troppo larghi? Troppo stretti? Non abbastanza? Come vedi i tuoi denti? Troppo gialli? Troppo appuntiti? Troppo dritti? Non abbastanza? E io mi chiedo, e io ti chiedo, con quali lenti ti stai guardando? Con quali lenti ti stai guardando? Tu sei stata creata in modo meraviglioso e in modo stupendo. Meraviglioso, letteralmente, significa in soggezione, in ammirazione, in timore, in riverenza. Significa questo, con meraviglia, ma no, non tanto a quello che vediamo nello specchio, ma in soggezione, ammirazione, timore, riverenza verso Dio che ha creato una cosa così meravigliosa. Ma ci pensate, siamo tutti diversi. Non c'è nessuno uno uguale. Ma ti sembra un caso questo? Secondo me è piuttosto un disegno. Sei creata in maniera stupenda, meravigliosa prima, stupenda dopo. Stupendo letteralmente significa distinto, contrassegnato, unico. Questo è quello che sei, sorella. Attraverso quali lenti ti guardi? E io mi chiedo, e io chiedo ai fratelli, ai miei figli, ma fisici non può essere perché è dall'altra parte del mondo, ma ai miei figli spirituali, come ti guardi? Come ti vedi? Non abbastanza? Non abbastanza istruito? Non abbastanza considerato? Non abbastanza raccomandato? Perché c'è sempre un altro. Non abbastanza capace per quello che è la tua aspirazione. O troppo capace per quello che stai facendo. Ti senti troppo così o troppo colà? E io ti chiedo, e io mi chiedo, attraverso quali lenti ti stai guardando? Attraverso quali lenti ti stai guardando? Non possiamo cadere nella trappola di queste lenti, perché sorelle prima e fratelli dopo, e poi fratelli potete prendere quello che ho detto per le sorelle, sorelle potete prendere quello che ho detto per i fratelli. Sorelle e fratelli, se noi permetteremo ai nostri genitori, ai nostri fratelli e sorelle, ai nostri amici, ai nostri insegnanti, ai nostri datori di lavoro, ai nostri colleghi, di dettare chi siamo, dire chi siamo, rimarremo sempre intrappolati nella rete soffocante di questo mondo. Perché questo mondo ha i suoi standard. E ci confronterà sempre a quei standard. E sapete una cosa di quei standard? Quei standard cambiano in continuazione. sei stato fatto in maniera stupenda, sei stato preso come Cristo è stato preso dal Padre con amore, e non quando si è ricordato di te, ma da eternità passata, da quando tu neanche stavi pensando a te stesso, neanche i tuoi genitori stavano pensando a te stesso. Lui ti ha voluto e ti ha creato in maniera stupenda e meravigliosa, con uno scopo ben preciso. Gesù sapeva tutto questo. E io mi chiedo se non nella sua pratica quotidiana, per quanto ne sappiamo, si appartava, andava in un posto isolato, lì sul monte, soprattutto per far questo, soprattutto per ricordare quelle parole che sono venute dall'alto e hanno detto: tu sei il mio amato figlio nel quale io mi diletto. E forse lui era lì su quel monte in disparte e pregava e diceva: Signore, anche per oggi ho bisogno di ricordare questa verità, perché appena scendo sarò inondato da mamma, papà, fratelli, sorelle, insegnanti, amici che vorranno dettare la mia identità e mettermi in quella trappola. Per questo Gesù, c'è scritto più volte, non si faceva influenzare, sapeva chi lui era. Da quando è stato trovato nel Tempio a 12 anni, fin sulla croce, Gesù sapeva costantemente da dove veniva, perché era qui e dove andava. E se io e tu vogliamo essere come lui, come Cristo Gesù, ogni giorno dobbiamo ricordarlo. Dobbiamo ricordare che siamo stati presi, come quel pane, siamo stati presi, scelti dal Padre, da eternità passata, per uno scopo ben specifico. Amen? Come facciamo a ricordarlo? Praticamente, velocemente, come facciamo a ricordarlo? Tre cose veloci. Predicalo a te stesso ogni giorno. Ogni giorno fai quello che Gesù faceva. Vai in disparte e stai. Ah, stare con il Signore in silenzio e sapere che Lui è Dio. E che Lui è il Padre che ci ha scelti e che ha un proposito da eternità passata ben specifico per noi. Ogni mattina vai da solo, appartati e predica a te stesso queste verità. Prima di prendere il telefono e ascoltare la chiamata, prima di fare qualsiasi altra cosa, andiamo da Lui e predichiamo ogni giorno a noi stessi queste verità. La seconda cosa è: cerca guarigioni da queste menzogne, dalle menzogne che troppo spesso hai vissuto. Cerca guarigione dalle lenti attraverso le quali continui a vederti allo specchio la mattina, o di come ti vedi: non sono mai abbastanza, non sono mai abbastanza, non sono mai abbastanza. Cerca guarigione da queste lenti. Oh, il Signore solo sa quanta guarigione ho bisogno io da queste lenti, da questa menzogna. Non sei abbastanza, non hai quello che ci vuole per fare quello che stai facendo. Non è così, e me lo devo ripetere e devo cercare guarigione da questo, perché io sono stato preso dal Padre da eternità passata per uno scopo ben specifico e preso in maniera meravigliosa. E l'ultima cosa è: facciamo accordi, andiamo dal fratello, dalla sorella per chiedere preghiera, ma proprio per dirci: me lo ricordi alla luce della parola, che io sono dal Padre da eternità passata per uno scopo ben preciso. Mi aiuti a non dimenticarlo, mi aiuti a trovare guarigione. Questo è quello che siamo chiamati a fare, per diventare più come Lui, per seguire Lui come Lui è. Di nuovo, Gesù sapeva benissimo chi Lui fosse. E se noi vogliamo essere come Lui, da qui dobbiamo iniziare, dalla nostra identità, dal fatto che siamo presi. Amen? Ci alziamo in piedi. Amen. Forse sei qui stamattina, per la prima volta o per le prime volte, mi dici: Gianluca, ma io non sapevo che Gesù era così e che io posso essere come Lui e che io sono chiamato e stato predestinato ad essere come Lui. Gianluca, non ho mai sentito una cosa del genere, non ho mai sentito e visto Cristo Gesù da questa prospettiva, in questi termini. E allora io ti dico: non lasciare questa stanza senza non aver parlato con qualcuno di noi. Vieni da me. Dici: Gesù, io voglio conoscere quel Gesù così, così come lo conosci tu, anche io. Vieni. È il Signore che ti sta chiamando. Se hai quel non so che non sai spiegare, non sei tu. È Lui che ti ha predestinato ad essere conformi all'immagine di Suo Figlio. È Lui che ti sta chiamando. Ancora prima noi di scegliere Lui, è Lui che sceglie noi, è Lui che ha scelto noi. E quindi non lasciare questa stanza. E questa mattina io ti chiedo anche di non lasciare questa stanza con delle ferite. E sapete, a volte il nemico peggiore di me stesso sono io. E il nemico peggiore di te stesso sei tu. E di come ti vedi. E di cosa vedi in quello specchio. E io voglio pregare per guarigione. E io voglio pregare per liberazione. Sapendo che di gloria in gloria è Lui che ci conforma. È Lui che ci guarisce. È Lui che ci restaura. E questa preghiera che vorrei fare non è magica. Non è la bacchetta magica che ting, e da adesso in poi tutto cambia. No, ma è quel pezzettino della Sua grazia che si aggiunge agli altri che ci sono stati magari e agli altri che ci saranno, e di gloria in gloria continuerà a trasformarci. Quindi se domani mattina rivivi le stesse accuse, no worry, tranquillo. Non è che con me non ha funzionato, il Signore a me non mi calcola, non mi vuole, non mi vede. No, il Padre ti ha preso, ti ha scelto, da eternità passata ti ha visto. E quindi ripetilo: no, ah giusto, questa è una menzogna. Il Padre mi ha visto. E allora ti chiedo di alzare la tua mano, con tutti i nostri occhi chiusi, se veramente vuoi arrendere questa preghiera al Signore, dire: Signore, sì è vero, io ho bisogno di lenti nuove per guardare me stesso. Signore, io voglio vedermi come Tu mi vedi. E voglio che questa identità cresca sempre di più di gloria in gloria, affinché io possa crescere a immagine e somiglianza del Signore. Che questa possa essere la tua resa, il tuo desiderio di voler crescere come Lui. E Signore Gesù, Tu vedi ognuno dei nostri cuori. Padre, vedi i cuori delle mani alzate, delle mani non alzate. Padre, Tu conosci ognuno di noi da eternità passata in maniera stupenda, profonda, incomparabile. Tu conosci noi stessi meglio che noi conosciamo noi stessi. Per questo ci arrendiamo a Te. E Padre, io prego contro le menzogne del nemico che vengono ad accusare ogni mattina a quello specchio. Nel nome di Cristo Gesù, Satana, noi ti dichiariamo sconfitto per la vittoria di Cristo Gesù su quella croce. Non hai alcun diritto più di accusare. Non hai alcun diritto di ricordarci la nostra vecchia identità. Identità che non è mai stata nostra. Nel nome di Cristo Gesù, fuori da questo luogo, fuori dalle nostre menti, fuori dai nostri cuori. Padre, rinnova i nostri cuori. Padre, ispira i nostri cuori a credere con fede che noi siamo Tuoi, ma non da ieri, ma non da quando siamo nati su questa terra, da eternità passata. Tu ci hai visto e ci hai amato. Signore, ispira i nostri cuori a fede, a credere. affinché possiamo essere come il tuo amato figlio, affinché possiamo camminare fuori da questa stanza, nella nostra famiglia, nei posti di lavoro, nelle nostre scuole, con una determinazione diversa, con una certezza diversa, Signore, nel sapere che anche se siamo deboli, siamo figli del Padre da eternità passata per uno scopo ben preciso. Padre, questo chiedo, di trasformare la tua chiesa questa mattina, un pezzettino in più per la tua gloria, Signore. E noi ci arrendiamo a te, ci arrendiamo a te. Forza chiesa, alziamo la nostra preghiera al Signore di arresa. Alziamo questa richiesta, Signore, fammi vedere chi io sono in te. Signore, rivelami ancora meglio la mia identità, il fatto che sono tuo da eternità passata. Alza la tua richiesta, combatti contro le tue menzogne. Tu sai meglio di me quali sono le tue menzogne nelle quali credi. Alza la tua preghiera in questo momento al Signore. Amen.